al Teatro Valle di Roma, il Teatro Valle che sappiamo è occupato, ma che continua, anzi che da quando è occupato fa sempre più spettacoli, perché da oggi fino al 24 agosto ci sono 3 giorni di jazz e questa sera in concerto c'è Maglio Maresca di Cattive Compagnie. Buon pomeriggio Maglio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, che sensazione c'è a suonare in questo teatro che oramai è diventato un emblema del risveglio culturale di questo paese? Ma io sono personalmente sono molto emozionato al pensiero di suonare in uno dei teatri più importanti, penso, d'Europa, insomma. Ha una storia secolare questo teatro. Per cui sono abbastanza felice ed emozionato di suonare con il mio trio, Le Cattive Compagnie. Che cosa succede questa sera? Quanti sono i musicisti che hai sul palco e che tipo di jazz suonate? Allora, questa sera siamo un trio composto da chitarra, contrabbasso e batteria. C'è Fabio Sasso alla batteria, Stefano Cesare al contrabbasso e io alla chitarra, Maglio Maresca alla chitarra. E suoniamo, facciamo un repertorio diciamo tradizionale, di standard. Insomma, cercheremo di farli alla maniera più moderna possibile, insomma. Anche domani sera saremo chitarra, contrabbasso e sassofono, con Carlo Conti al sassofono e Giuseppe Talone al contrabbasso, e facciamo sempre degli standard però riproposti nella maniera un po' più soft, senza batteria, quindi un po' il repertorio un po' simile al repertorio di Chet Baker, Jerry Mulligan, insomma più soft, diciamo non movimentato come questa sera, insomma. Maglio, che cosa succede? Vi chiama il Teatro Valle Occupato, voi suonate gratis oppure avete un cachet, c'è un biglietto? Perché tanto per capire l'organizzazione di questo teatro, che ricordiamo è occupato dal 14 giugno del 2011, quindi insomma è più di un anno. Sì, sì, guarda, come tutti quanti noi suoniamo gratis e siamo contenti, insomma, di appoggiare la causa del Teatro Occupato, quindi non ci sarà sia noi che gli spettatori potranno assistere allo spettacolo gratuitamente, e noi suoniamo senza prendere cachet, insomma suoniamo gratuitamente. Come abbiamo sentito, allora 3 giorni di jazz al Teatro Valle Occupato, appunto occupato dal 14 giugno 2011. Per capire bene che cosa sta succedendo, che cosa è successo in tutto questo periodo, noi abbiamo rintracciato un'attrice occupante, questa è la definizione, Laura Pizzirani. Buon pomeriggio Laura, che cosa vuol dire essere attrice occupante e che cosa è successo al Valle? Buon pomeriggio a tutti. Allora, essere attrice occupante è una strana declinazione che stiamo cercando di comprendere ancora dopo un anno e più di occupazione, perché ovviamente stare qui dentro ha significato appunto occupare uno spazio inizialmente in maniera simbolica. L'idea era che questa occupazione durasse solo 3 giorni, poi quello che è accaduto è stato che la presenza di pubblico, la partecipazione di tutti gli artisti, il fatto che proprio questo simbolo che abbiamo in un qualche modo toccato abbia aperto una riflessione molto più ampia sulla gestione dei luoghi, della cultura, dell'arte, sulla modalità di produzione dell'arte, sulla modalità di distribuzione, su come vengono trattati i lavoratori, su come vengono gestiti i soldi pubblici e quant'altro, insomma si è aperto proprio un mondo. Tutto questo ci ha fatto pensare che forse il momento storico era propizio non solo per lamentarsi, ma proprio dire ok, forse io come attore, come operatore, come artista, come musicista, come scrittore, eccetera, eccetera, conosco forse meglio di chiunque altro come dovrebbe funzionare il luogo che io ho scelto per lavorare e per vivere. Da giornalista ti devo fare qualche domanda. Primo, sì. Per esempio, come fate per la sicurezza? Il Valle quanti posti ha? Noi intanto siamo in occupazione, quindi non dobbiamo stare dietro le leggi, stiamo riuscendo a mantenere la sicurezza di questo teatro in maniera impeccabile proprio perché abbiamo organizzato dei turni di accoglienza, ci sono persone su tutti i piani che controllano il flusso del pubblico, ci sono persone alle porte, siamo noi che facciamo questo. Infatti, per rispondere alla tua domanda su cosa significa essere attrice occupante, significa principalmente fare tutto quello che normalmente un attore non fa, o non solo quello, quindi gestire la comunicazione, gestire l'organizzazione, la sicurezza del luogo, conoscere questo luogo perfettamente, sapere cosa si fa in caso di rischio, di pericolo, cosa bisogna preservare, eccetera, eccetera. Abbiamo e voi dormite nostra... lì? Sì, poi c'è un gruppo di persone che dorme sempre qui, ovviamente ci alterniamo per non affaticarci troppo e rischiamo lo sgombero ogni giorno. Quindi non voi non è che avete parlato con l'assessore alla cultura di Roma, Dino Gasperini, vi siete incontrati, avete cercato di convergere in un accordo, no? Al momento no, perché quello che stiamo tentando di fare è proprio di immaginare un modello nuovo di come gestire un teatro. Cioè, quello che noi vorremmo è che un direttore artistico in Italia, in un teatro pubblico, venisse eletto per un progetto culturale che fa, non perché ha diciamo contatti forti con i politici di turno. Allora, ringraziamo Laura Pizzirani, attrice occupante. Abbiamo semplicemente fatto una piccola finestra sul Teatro Valle occupato dal 14 giugno del 2011. Ricordiamo anche all'assessore alla cultura di Roma, Dino Gasperini, che qualora volesse intervenire qui a Summertime per dire la sua su questo problema, noi saremo lieti di ospitarlo. Grazie a Laura. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno Daria. Buongiorno dottoressa, non so se è questa mia natura da bestia ferita, però... Come va? Bene, bene, abbastanza bene, però io vorrei capire perché questa paura provata nell'infanzia poi non ci abbandona. A freddo? No, no, mi sembra di essermi coperta abbastanza. Beh, fuori c'è forse, un po' di tramontana. Sì, eh? Sì, forse ecco, cioè, il punto è proprio che non ci si cura mai da se stessi, è così. Eccoci qui. Senta, dottoressa, io le volevo dire che volevo smettere... Niente, si è girata. Volevo dire questa cosa importante. Niente, vabbè, dopo. E noi andiamo a Amo la Mola, il palcoscenico sul mare ad Ancona, dove è in scena questo spettacolo, L'origine del mondo, ritratto di un interno. Uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro. Buon pomeriggio, Lucia. Buon pomeriggio a tutti. E abbiamo sentito un piccolo brano dove c'è una psicologa che parla con una protagonista che è Daria, giusto? Sì, esattamente. Daria, che va dalla sua analista, e tutto il quarto capitolo è dedicato anche al tentativo disperato di Daria di voler smettere con questa analisi, ma non riesce neanche a dirla questa cosa, quindi insomma... continua in questi suoi processi di introspezione che poi sono, se vuoi, il fulcro di tutto quanto lo spettacolo, no? È uno spettacolo chiaramente introspettivo. Quindi la protagonista è Daria, è una donna. Poi ti faccio così un riassuntino, una specie di cappello generale, sì, una donna di mezza età, chiaramente borghese, che si ritrova a dover affrontare una crisi, probabilmente una crisi di mezza età, come insomma si affronta spesso in una vita, solo che lei, se vuoi, l'affronta in un modo più categorico, non uscendo praticamente più di casa per un periodo e uscendo unicamente appunto per andare alle sessioni di psicanalisi. E quindi c'è questo interno obbligatorio per lei, per la figlia, per sua madre, che si sviluppa, si articola, tessuto nei suoi pensieri, nei suoi stati d'animo, nel suo modo di guardare il mondo. Quindi è una specie, guarda, di Dostoevskij, di sotterraneo contemporaneo, ecco, se vogliamo, no? Cioè qualcuno chiuso dentro se stesso e dentro uno spazio fisico, solo che è una donna, solo che le sue riflessioni sono più nostre di quelle che poteva, se vuoi, fare Dostoevskij, ecco. Senti Lucia, questo spettacolo è stato anche al Teatro Indie, è stato insomma, ha girato parecchio in Italia, no? Anche a Milano? Sì, ma a Milano andiamo a febbraio, no, al Franco Parenti saremo, a Milano se vuoi, cioè ha girato parecchio in tutte le sue prime fasi perché è stato costruito a capitoli se vuoi, quindi un capitolo è nato qua, un altro capitolo è nato là, quindi già ci siamo fatti alcuni festival l'anno scorso per farlo nascere e quest'anno invece è già nato, se vuoi lo portiamo in giro in modo più rotondo, più sicuro forse anche in qualche modo, no? Sapendo come va a finire, ecco, l'anno scorso non sapevamo poi cosa succedeva. Quindi avete proprio scritto sul palcoscenico e inizia che poi Daria che apre il frigorifero, quindi c'è anche un rapporto con il cibo. Guarda, c'è un po' un rapporto col dentro, dentro declinato in tutte le sue manifestazioni. E chiaramente il frigo avendo una porta ha un dentro, la lavatrice avendo uno sportello ha un dentro, se vuoi ci sono tutti questi oggetti, questi elettrodomestici che permettono di ficcare dentro la testa, no? Insomma, quindi c'è questo grande movimento verso il dentro che poi si declina negli oggetti, nella casa, nel pensiero, nei rapporti, un po' in tutto, ecco. Lucia, perché le donne di mezza età entrano in crisi? Visto che c'è scritto uno spettacolo, ci devi dare un'illuminazione. No, dunque, io guarda, io vorrei tanto dire che non è una donna, cioè è una donna di mezza età, ma poteva anche essere un uomo di mezza età. Ma loro senso... fanno peggio, si fidanzano con le 25 anni perché così almeno cercano di essere giovani, fuori. Quello, vedi, forse quello è un problema che la donna non ha. Diciamo questo rincorrere della giovinezza dipende, poi sai, io non vorrei fare teorie generali, teorie generali sono sempre sbagliate, insomma, per definizione, però entri in crisi penso perché in un momento dentro di te qualcosa deve cambiare, giustamente devi mollare una dimensione di te che oramai non esiste più, forse quella della prima infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza, e non sei ancora preparato all'altra, cioè l'altra non la sai, quella lì non è più la tua, l'altra ancora deve venire e tu stai in una specie di vuoto del fare, cioè come si fa a essere una persona di 45 anni? È come se fossimo tutti allenati a essere ventenni e trentenni in forma e in gamba, nessuno ti allena a essere una 45enne, cinquantenne, non c'è scuola di pensiero al rispetto. E quindi c'è secondo me questo anche vuoto di come ti vesti, come affronti il mondo, in che modo puoi parlare, e perché poi, come ti vedono gli altri, se ancora ti vedono, insomma, tutta quando ti chiamano signora per la prima volta. Ti chiamano signora, ma sai, forse ti ci chiamavano anche da prima, ma ti faceva meno effetto, adesso tu sai che effettivamente lo sei, se vuoi, a un certo punto, no? E allora poi, giusto, no, e allora è giusto andare a vedere il tuo spettacolo? Io penso di sì, perché prima o poi ci si capita in queste zone dove sta questa Daria, mia protagonista. Io penso che ognuno ci capita, uomo o donna, e quindi magari ci si ritrova anche con un po' di ironia, di scarto, perché sei meno solo, se vedi che ce l'hanno anche gli altri ti senti meno solo, ecco. Allora ringraziamo Lucia Calamaro, abbiamo sentito uno spettacolo sicuramente da andare a vedere, almeno per le donne come noi di mezza età, ad Ancona, a Amo la Mole, palcoscenico sul palco, sul mare, scusate, l'origine del mondo, ritratto di un interno. Grazie Lucia. Grazie a te, grazie a tutti, arrivederci. Italy, number one nel mondo per arte, per stile. Cucinano benissimo, quasi come noi inglesi. Davvero, davvero. Però loro dovrebbero avvisare a stranieri, però, quando vanno a vivere in Italia, di certi strani cose dell'Italia. Tipo, cominciato a guidare in Italia, per un inglese molto traumatico come guidano loro, E quello che state sentendo è John Peter Sloan, che questa sera sarà ospite speciale a SOS Cabaret ad Arezzo, e che praticamente premierà i nuovi comici. Buon pomeriggio, John. Hi, how are you? I'm okay, ma ancora non ti sei abituato a parlare un po' questa lingua così difficile come l'italiano? No, ma dai, ma almeno un saluto in inglese. Cioè. Almeno il saluto. No, we can talk in English if you like, ma mi sembra brutto. Sì, certo. Well done, well done. Senti, da quanto tempo stai in Italia? Allora, fisso, sono qua da 12 anni più o meno. Sono venuto qua come cantanti, cioè 20 anni fa, però di vivere qua da 12 anni ci sono. E vivi ad Arezzo, in Toscana, la meta preferita dai tuoi connazionali, oppure vivi a Milano, a Roma? No, sono a Milano. Sono venuto qua a fare vacanza perché non mi sembrava che c'era abbastanza inglese a rompere le scatole qua in Toscana, quindi sono venuto anch'io. Infatti siamo tantissimi. Sono anche in vacanza qui, ma anche perché sapevo che dovevo fare la festa ad Arezzo. But it's beautiful, it's so beautiful. It's really beautiful, Tuscany. quasi come Napoli, quasi. Ecco. Senti John, dopo 12 anni che stai in Italia ancora trovi buffi gli italiani, malgrado adesso siano un po' tristi perché c'è la crisi economica, ti danno ancora spunto per sorridere? Guarda, io dico sempre, cioè, per esempio a Zelig a me dispiace per gli altri comici che devono stare su di notte a inventare chissà cosa da raccontare, quando io in realtà ho il lavoro più facile di tutti perché io faccio osservazioni sugli italiani e potrei fare spettacoli di giorni senza pausa, cioè i materiali non manca mai. Non è che lo trovo italiani buffi, lo trovo estremamente divertenti, le trovo molto interessante. Cioè in inglese si dice never a dull moment, cioè con gli italiani non si annoia mai, cioè sono vivi ed è per questo motivo che sono qui. Quindi tu dici che praticamente non pensi che magari anche gli inglesi sono così, i tedeschi, i francesi, no, è una nostra caratteristica quella lì di essere... No, no, magari se fossi così in Inghilterra, noi siamo ancora molto ripressi, in Inghilterra c'è molta ripressione proprio del carattere proprio, quello che mi... uno dei motivi più importanti che mi sono innamorato dell'Italia è che l'italiano è libero, cioè lo stavo raccontando a un amico ieri che ho visto un italiano, per esempio un uomo italiano che piangeva in un bar e si sono avvicinati tutti, facevo grandi tenerezza, anzi forse era anche ancora di più perché era un uomo, e io dicevo a lui che se fosse succede in Inghilterra un uomo che piange in pubblico prima di tutto toglierebbero subito il passaporto e gli just can't do it, you know. Invece l'italiano è vero, è questa mi piace moltissimo. Magari in fondo anche noi inglesi e tedeschi abbiamo stesso spirito, ma non siamo permessi di manifestarlo, credo. Only if you drink, no? Solo quando uno beve. Bravissima, no? esatto, ed è per questo che io ho sempre detto che però hai visto però che gli italiani quando bevono diventano sciocchi in senso buono, io ho i miei amici italiani che quando bevono diventano cioè mi abbracciano, dicono ma ti ho mai detto che ti voglio bene anche se sei un inglese di sono melodrammatici anche quando bevono. Ma gli inglesi diventano cattivi, capito? Perché comunque c'è questa rabbia dentro proprio per questo, io sono convinto che è proprio grazie a questa repression che alcol in Inghilterra, almeno quando si beve, possono essere loro stessi, capito? E ricordiamo SS Cabaret, grazie a John Peter Sloan, serata conclusiva con premiazione proprio ad Arezzo. Grazie. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Antonella Migliaccio in redazione e vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.